si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. No, you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets. But no one's even listening to you. Sono stato già invitato a almeno quattro manifestazioni per raccogliere fondi. Occhio a queste manifestazioni che facciamo noi del mondo dello spettacolo, perché non solo una piccola cosa voglio dire, perché il gioco deve valere la candela, perché se io faccio uno spettacolo, organizzi uno spettacolo e poi per fare questo spettacolo devi spendere dei soldi, perché devi preparare il palco e quelli vogliono essere pagati, perché devi, cioè che devolvi, non devolvi tutto, ma devolvi tutto tranne, capito, le spese per, allora non lo fa. Questa notte ho riflettuto abbastanza su come poter aiutare queste persone vittime di questa catastrofe e allora ho deciso di donare l'intero incasso del concerto che terrò il 9 settembre, ripeto, a San Nicola Baronia, e consegnarlo direttamente io, personalmente, al sindaco di Amatrice. Eccoci qua, buonasera a tutti ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, insieme fino alle 20:00 24:00 24. Fiorello contro Gigi D'Alessio. Un Fiorello particolarmente complottista, che dubita dei fondi destinati in beneficenza negli spettacoli che coinvolgono le grandi personalità, i VIP, i musicisti, perché avete sentito, se devi pagare quello, quell'altro, quello che fa il palco, devi spendere un sacco di soldi, alla fine doni un 5, un 10% in beneficenza, non ha senso. Io, dice, preferisco donare personalmente, senza fare spettacoli. Perché certo si perde il pathos se non c'è il grande evento con la dedica, però ha ragione Fiorello, se poi si perdono anche i soldi da destinare ai terremotati è anche peggio, capito Gigi D'Alessio? Che invece ha annunciato l'ennesimo concerto, per amor del cielo non c'è niente di male, è la sua scelta, però il cui incasso verrà devoluto in beneficenza, che però potrebbe essere anche un modo, indirettamente Fiorello non lo dice, ma lo diciamo noi, per farsi anche un po' di pubblicità. 800 24 00 24, voi da che parte state? Chi vi ha convinto di più? In ogni caso sappiate che se dubitate dei fondi per la ricostruzione, se dubitate che i soldi raccolti, gli incassi degli spettacoli vadano effettivamente ai terremotati, se dubitate addirittura delle raccolte che fa la Croce Rossa, sappiate che siete solo dei tirchi in realtà, non è complottismo, siete dei tirchi. Parola di Enrico Mentana, che ha deciso di incrociare una battaglia sua personale contro i webeti, cioè quelli del web che le sparano grosse. Sentiamolo su varie cose, sentiamo. Adesso, soprattutto però in questa fase, quella del dopo terremoto, le fesserie non devono passare. Siccome tra le altre cose si mette in dubbio la solidarietà stessa, dove vanno a finire i soldi delle sottoscrizioni, che è la classica frase che dicono tutte le persone che A, non hanno niente da fare, quindi passano il tempo a scrivere, B, non voglio dare neanche le 2 euro dell'SMS solidario. Se tu inquini la vita comune, il dibattito sulle cose importanti con le bufale, lo fai per un fine, non lo fai per fare uno scherzo, una goliardata. Oh, intanto però l'ultima questione che riguarda i terremotati è quella dei funerali. Chissà chi ha pensato, si dice per questione di viabilità, di fare i funerali a Rieti. Una mezza follia, perché era ovvio, era evidente che i parenti non sarebbero stati d'accordo. Comincia un braccio di ferro tra le popolazioni colpite dal terremoto e le autorità, le istituzioni, che intanto vogliono fare i funerali a Rieti per questioni organizzative, ma giustamente i parenti li vogliono fare lì perché è il loro territorio, è lì che vogliono che il diritto ad essere aiutati venga esercitato, perché ricordiamo, hanno Ma una sacrosanta ragione. Essere aiutati dopo un terremoto è un diritto in uno Stato come l'Italia. Non è una elargizione, non può esserlo. Quindi se è un diritto ci sta di mezzo anche che ci sia un controllo da parte delle persone che vengono aiutate, ci sia della trasparenza, ci sia possano decidere anche loro dell'aiuto che gli viene dato. Quindi funerali ad Amatrice, il governo ha cambiato in corsa. 800 24 00 24, però la questione è ancora quella degli edifici pubblici, sono i primi a non reggere, dovrebbero essere invece i primi a essere più solidi. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Cialente. Questa è la ricostruzione privata e ci siamo inventati noi un modo di fare, eccetera. E questa, alla mia... questa è la rappresentazione degli appalti pubblici italiani. È nata, un albero è nato a Brooklyn, qui un albero è nato all'incrocio del Card e del Decumano. Ma di chi è la colpa? È del sistema. E allora, il sindaco di Amatrice, l'abbiamo pure sentito anche noi nei giorni scorsi, siamo parte civile sulla questione della scuola, va bene, però forse anche il tecnico del comune o il tecnico che da parte del comune avrebbe dovuto controllare in questo momento potrebbe essere sotto accusa, ma come sempre è un rimpallo di responsabilità. Se non è stato fatto il miglioramento sismico e non adeguamento, chi non l'ha fatto, chi non ha controllato, chi ha sbagliato, è giusto che va in galera, buttiamo tutte le chiavi e devono scontare quello che hanno fatto, perché cari signori non vi scordate che io avevo i figli là dentro, non giochiamo. Chi non ha controllato deve andare in galera, io sono, figuriamoci, i miei figli li mandavo dentro quella scuola, però forse il sindaco non ha ben presente che potrebbe, io non lo so, potrebbe essere anche lui uno di quelli che avrebbero dovuto esercitare un controllo direttamente o indirettamente. Comunque, non è ancora, parliamo delle Olimpiadi, un no secco definitivo senza appello, quello del sindaco di Roma Virginia Raggi per le Olimpiadi. Sono rimasta con Malagò che ci saremmo sentiti dopo l'estate. È il 28 agosto, l'estate non è ancora finita, ci sentiremo. Allora, io ritengo che tutto questo discorso sulle Olimpiadi debba essere rinviato a dopo l'incontro che avrò con il presidente Malagò. Iniziamo a promuovere uno stile di vita sano, sin dalla scuola, con un'alimentazione corretta, con una pratica sportiva quotidiana. Allora, il web è questo, c'è la battaglia di Enrico Mentana contro i webeti, cioè quelli che vomitano bile, in ogni occasione, e attaccano, se la prendono contro tutto e tutti, complottisti oltre ogni ragionevole anche immaginazione. Però il web è anche quella cosa per cui un ingegnere di Pieve di Cento mette delle foto del terremoto su Facebook con delle frecce rosse e fa capire a tutti quello che è successo con il terremoto di Amatrice. Gerardo Gotti, ingegnere edile di Pieve di Cento, è con noi, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, è successo proprio questo, che insomma, i crolli degli edifici ad Amatrice, ad Accumulo, erano talmente, dal punto di vista di un ingegnere esperto anche di sisma, che tra l'altro ci è passato attraverso un'esperienza personale, che anche guardando semplicemente le foto tu hai detto, beh, insomma, se posso dare una mano, perché la gente capisca, al di là di ogni strumentalizzazione, perché tu l'hai detto chiaramente, non volevi aprire polemiche, strumentalizzare contro nessuno. Com'è nata questa cosa? Ma questa cosa è nata, diciamo, molto in fretta, e guardando i vari telegiornali in televisione dopo pranzo ho rivissuto un po' quelle situazioni lì e ho cercato di dare un contributo per quel che potevo con, diciamo, le mie capacità tecniche, quello che mi ha permesso dalle mie capacità. Ho dato il mio contributo in questo modo e l'ho voluto condividere. Hai rivissuto, hai detto, perché tu ci sei passato nel 2012. Sì, noi qui c'è stato il sisma nel 2012, la prima scossa è venuta alle 4 del mattino e sì, ci siamo svegliati, fortunatamente casa mia è rimasta intatta, sono caduti alcuni libri e alcuni soprammobili, ma diciamo la paura c'è stata. Poi ci fu l'altra scossa ancora più grave diversi giorni dopo. Sì, fortunatamente non l'ho vissuta perché ero a Bologna, ma sono rimasto impaurito comunque, perché poi lo sciame si fa poi sentire anche nei giorni successivi. Tu hai messo appunto, questo per dire anche che tu sei animato dalle migliori intenzioni, sei uno che ci è passato, non volevi creare una polemica inutile, appunto come avrebbe detto Mentana, da Webeti, anzi, hai messo su queste foto con delle didascalie che hanno reso comprensibile, devo dire, anche a me, a molti, ed ecco perché poi sono diventate virali, molto condivise, quelli che erano gli errori principali o di costruzione o anche di tentato adeguamento di alcune di queste costruzioni. Adesso, dopo il traffico, cominciamo a fare qualche esempio e, se possibile, spieghiamo alla radio, anche se non è possibile visualizzarle, quelle che sono state le tue deduzioni su questi crolli di Amatrice. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Per quanto mi riguarda, io preferisco fare ognuno a modo suo, capito? Io preferisco fare la mia beneficenza privata. Sono fatti miei, la faccio io, nessuno sa niente, per carità. Ma queste cose troppo amici, tutti insieme andiamo e cantiamo, cioè, se allora la dobbiamo di aiuto, c'è bisogno di cantare. Dai i soldi direttamente e gioco è finito. Vabbè. È così, Fiorello, 800 24 00 24. Anche voi dubitate che i soldi destinati con la beneficenza per la ricostruzione vadano a buon fine? In realtà lui non dubita in generale della solidarietà, ma in particolare non è convinto del fatto che fare spettacoli e donare l'incasso in beneficenza sia un buon metodo. Lui dice: doniamo, noi che ce lo possiamo permettere, direttamente qualcosa ai terremotati. Con noi l'ingegner Gherardo Gotti da Pieve di Cento, che su Facebook ha postato una serie di foto subito dopo il terremoto, nelle quali si visualizzavano gli errori più macroscopici, Gherardo, di costruzione o in alcuni casi anche di tentato adeguamento. Ha utilizzato delle frecce per mettere, come si suol dire, il dito nella piaga, no? Esatto, sì, il discorso è proprio questo. Diciamo che il problema principale, da come si vede anche le ultime immagini dei droni e dei vigili del fuoco, appare che le murature sono collassate, quindi si vedono proprio i sassi con cui erano fatte le murature, e quelle murature di pietrame lì sono molto poco resistenti, quindi sono molto deboli. Andandoci spesso a mettere sopra, probabilmente per ipotesi, dei cordoli e delle coperture rigide in cemento armato pesanti, sì, si vanno a creare delle situazioni molto particolari, per cui i vari studi precedenti, che comunque sono ancora in atto, consigliano di utilizzare appunto questi interventi su questi tipi di murature. È questo, esatto, perché finché uno dice ci sono dei muri di pietra, di pietrisco che non reggono al sisma, ci può stare, però in effetti tu hai evidenziato come ci siano delle parti invece orizzontali, questi cordoli, no, che sono di cemento armato, molto più pesanti, che stanno poggiati su queste pareti. Si tratta proprio di errori macroscopici, madornali. Sono errori della progettazione o sono addirittura errori fatti in successivi tentativi di adeguamento di questi edifici, secondo te? Io penso che siano, forse più che errori, i tecnici dell'epoca si basavano sulle normative dell'epoca, che magari non prevedevano l'antisismica oppure non erano aggiornati con gli studi e le tecnologie che ci sono in questo momento. Adesso chiaramente il lavoro che c'è di studio, di ricerca nell'università, ha portato comunque a delle soluzioni che possono, diciamo, mitigare questi problemi. Un'altra cosa che tu hai evidenziato con queste foto, con le frecce rosse, forse sarà semplicistica come spiegazione, però ripeto, ha dato modo a molti di capire un po' meglio il perché certi edifici possano essere crollati. Credo che capire sia la base per avere poi fiducia anche sul futuro. Per esempio l'hotel Roma, il famoso hotel Roma, si vedono interi pezzi di cemento armato con i tubi di acciaio che sono piegati, hanno collassato, e anche lì in qualche modo c'è una spiegazione su come dovrebbero essere posizionati questi tubi di acciaio. Certo, la spiegazione è più o meno analoga a quella precedente, cioè ai tempi quell'edificio lì sicuramente è molto vecchio, perché si vede dalle foto che i materiali utilizzati sono datati molto, e ai tempi non era prevista una normativa antisismica, quindi chiaramente l'edificio sotto carichi statici per la gravità semplice regge, ma al momento di una forza orizzontale come quella del sisma purtroppo gli effetti sono quelli. E se li hai visti tu in foto, evidentemente questi errori, o comunque come definirli, se tu dici non sono errori perché magari facevano riferimento alle norme dell'epoca, però dal punto di vista ingegneristico sono degli errori, dei veri e propri errori. Certo, se venissero fatti adesso sarebbero davvero delle cose molto gravi, quindi sì, diciamo di sì. Errore forse non è proprio errore, magari è un errore se viene fatto adesso con le normative vigenti che sono molto restrittive da quel punto di vista. Certo, lì. Hai ragione ad andarci cauto con le parole, perché altrimenti è facile dire guarda che errore che hanno fatto, magari si tratta di un palazzo costruito 100 anni fa o 80 anni fa quando certe norme non c'erano, e anche se mi viene da dire c'era l'ingegneria, esisteva già, cioè costruire palazzi è un'arte antica. Ci sono, per esempio, in una frazione San Lorenzo Flaviano, credo di Amatrice, c'è un palazzo, a me ha colpito molto, del 500, che è rimasto completamente in piedi, a fianco un edificio del 900 crollato. E questo purtroppo si ripete ad ogni terremoto. Ma costerebbe molto, secondo te, fare delle correzioni per correggere? Sarebbe molto complicato o costoso correggere questi errori che tu hai evidenziato su Facebook? Oppure si fa prima a tirar giù e a ricostruire, che però è una cosa molto costosa? Beh, forse va valutato caso per caso e a seguito di analisi molto approfondite. Così su due piedi faccio fatica a darti una risposta generale che valga in assoluto, quindi ci vorrebbe un tecnico che possa analizzare, certo, studiare, magari facendo anche delle prove o cose del genere. Ecco. Perché anche questo poi è argomento di discussione tra chi dice si può intervenire, possono bastare anche alcuni migliaia di euro per ogni edificio, pochi. Per esempio abbiamo parlato del caso della Lunigiana, dove sono state usate le catene per tenere insieme le pareti tra di loro, agli angoli degli edifici, altri che dicono no, qui bisogna buttare giù e ricostruire tutto. Tu il terremoto, ci raccontai prima, l'hai vissuto, sei stato anche volontario all'Aquila in passato, vero? Sì, più che volontario ho fatto una visita didattica all'università, sì, chiamiamo la visita didattica, in cui siamo andati appunto a vedere le conseguenze del sisma, i danni subiti dagli edifici, appunto per sensibilizzarci anche noi. Il professore ha voluto sensibilizzarci a capire quali sono le conseguenze per progettare al meglio gli interventi che si possono fare, che si possono eseguire. Che similitudine hai trovato tra l'Emilia, casa tua, l'Aquila, quando sei andata a visitare, adesso le immagini che hai visto col terremoto in Lazio? Ci sono delle differenze principali o delle similitudini? Beh, sicuramente emotive, e poi tecnicamente il discorso del cordolo in cemento armato all'Aquila era comparso in parte, e poi dopo la questione degli edifici in cemento armato, dove penso una questione molto importante, dove le tamponature, che sono quegli elementi divisori che non sono strutturali ma vanno semplicemente a fare da divisorio fra gli ambienti oppure con l'ambiente esterno, durante il sisma, a seguito della deformazione della parte strutturale, hanno collassato, creando anche vittime. Grazie Gerardo, ciao, in grazie bocca al lupo, grazie. Buona complimenti serata. Perché con semplicità, senza creare polemiche o voler strumentalizzare quello che era accaduto, hai fatto un servizio e hai utilizzato il web in maniera sicuramente intelligente. Carlo da Milano, buonasera. Pronto, buonasera, buonasera. Prego. Volevo intervenire in merito alla polemica tra Fiorello appunto e D'Alessio sui soldi raccolti durante i concerti quando succedono queste calamità naturali. Sì. Secondo me ha ragione Fiorello, nel senso che quando appunto questi soldi in gran parte poi vanno spesi per altre cose, cioè che ai terremotati o chi per loro, dove succedono queste cose, arriva la minima parte. Era già successo anni fa, quando era sorta la polemica con le organizzazioni governative sotto l'egida dell'ONU che raccolgono i soldi, e poi la maggior parte di questi soldi vanno nelle tasche dei dirigenti, dei funzionari e tutto, e alle popolazioni ne arriva una minima parte. Certo, se si come dire, investe 100, facciamo 100, e poi esatto, in beneficenza va soltanto il 10%, esatto, allora si fa un gran can-can, si fa anche della pubblicità, all'artista di turno, e poi i soldi veri e propri sono pochi. Quando dice Fiorello, molti di questi artisti, normalmente abbastanza ben pagati, potrebbero probabilmente fare delle donazioni e arrivare quasi allo stesso risultato senza farsi molta pubblicità. Grazie Carlo, buona serata. 800 24 00 24. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I know you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it on the cover. Allora, 18 e 32 minuti, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Messaggi sparsi al 349-238-6666. Assolutamente d'accordo con Fiorello, dice Davide da Carpi. Sono persone come Mentana e D'Alessio, quindi mette insieme due cose che non c'entrano nulla, che non raccontano come vanno le cose. In verità in questo paese sappiamo tutti che questi soldi non arrivano interamente a destinazione. Grande successo per l'uscita di Fiorello. Ancora... tutta la vita con Fiorello, dice un altro ascoltatore. Questi fanno gli spettacoli di beneficenza e soprattutto vogliono essere pagati. Oppure ancora, grande Fiorello, finalmente uno che dice la verità. Poi un ascoltatore che chiede di ridire il nome dell'ingegnere di Pieve di Cento, Gherardo Gotti si chiama, e se andate su, su internet, cercate, googolate come si dice, cercate su Facebook, ma non solo. Ha aperto una pagina, in realtà una pagina nuova, perché aveva troppe richieste, diciamo, d'amicizia, e insomma questo ingegnere ha fatto a suo modo un piccolo servizio. 800 24 00 24, c'è Marco che ci chiama da Roma, buonasera Marco. Buonasera a tutti, buon lavoro e complimenti per il servizio che date. Io sono il presidente di un'associazione di volontariato, un'unità specialistica essenzialmente. Non voglio assolutamente fare polemiche sul fundraising per le zone terremotate, perché la Presidenza del Consiglio, tramite la protezione, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, sì, ha messo a disposizione un numero diretto che è assolutamente sotto il controllo del Dipartimento Nazionale, e non credo proprio che ci possano essere sorprese di nessun tipo. Marco, sai cos'è che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile dici? Sì, esatto. Che in passato anche la Protezione Civile è stata toccata, lambita da qualche scandalo. Ci sono persone non trasparenti in tutti gli ambiti. E questo purtroppo, capisco l'amarezza, rischia di gettare discredito, sì, no, sul lavoro di tutti. Tu sì, di che associazione sei presidente? Se posso chiedere? Io sono il responsabile nazionale del settore aereo dei Vigili del Fuoco in congedo, una delle più grandi associazioni, sì, dopo i Carabinieri in congedo e tante altre organizzazioni. E siete impegnati ad Amatrice? Siamo impegnati attualmente con 50 uomini dislocati nei vari campi, ma io volevo mettere il dito su una questione che mi tocca particolarmente. Da quando è stato emesso il NOTAM del divieto di sorvolo proprio sulle zone, sì, terremotate, e sapete sicuramente il significato che ha un NOTAM sui 40 chilometri di raggio attorno alla matrice, io è un po' di giorni che invece di vedere solo le riprese video fatto dai droni dei Vigili del Fuoco, che sono, sì, gli unici autorizzati a far volare qualsiasi cosa, incomincio a vedere riprese video fatte da troupe che non potrebbero far volare nulla sopra quei territori, e inoltre suppongo che lo facciano per uno scopo di lucro. Ora, tu sei un giornalista, io credo di essere un addetto del settore, e a noi ci vietano di intervenire con i nostri mezzi aerei quando vedo poi dei mercatini fatti da specialisti dei media. Anche i media hanno diritto di voce, sì, no, in questo momento, anzi, il diritto di informazione. Ci sarà qualcuno che controlla tutto questo? No, purtroppo no. Non io oggi ho mandato email alla prefettura di Rieti, alla presidenza del consiglio, all'ENAV, per sì. sapere come mai girano tutti questi filmati fatti con droni non autorizzati. Ma io non credo però c'è bisogno di autorizzare, c'è un terremoto, è un fatto che più pubblico non si può, non so se c'è bisogno di un'autorizzazione per fare delle riprese. Il NOTAM parla chiaro, non può volare nulla che non siano mezzi dei corpi dello Stato. Però il drone non è un velivolo, il drone è un piccolo oggetto che pesa un paio di chili. No, c'è una normativa stringentissima. Va bene Marco, però questo è, grazie per aver sollevato questa questione qua, però mi sembra un argomento tecnico, insomma, che ha a che fare con giuste preoccupazioni da parte vostra, di chi sta intervenendo. Non aveva ancora sollevato nessuno questa questione qua, però insomma è così, si esaurisce in questo. Giuseppe da Milano, buonasera. Buonasera, volevo solamente dire che sono d'accordissimo con Fiorello per la polemica sì. su Gigi D'Alessio. In queste occasioni penso che dovrebbero essere più onesti e gli artisti a dire che non devolvono l'incassato, ma semmai quello che rimane dopo tutte le spese. E quindi invito gli italiani, invito tutti, evitate di andare a mangiare una pizza fuori questa settimana, fate un bonifico di 50 euro, Crocerossa Italiana, Protezione Civile o chi per esso, in modo da fare qualcosa di più concreto che queste baggianate che sicuramente servono per anche per una questione di marketing. Cioè tu dici fai una differenza tra l'incasso e il ricavo. Io posso incassare 100 e tolte 100, le spese ricavo 10, il solito discorso. Infatti sono d'accordissimo con Fiorello, perché non ci credo che loro devolvono l'incassato. Devolveranno al netto di tutte le spese, e quindi che ne sappiamo noi che poi le spese non siano gonfiate. Quindi è una bella operazione di marketing, facciamo una cosa più concreta di fare un bel bonifico sperando nell'onestà. Sì, poi non ti dicono mai quanto in effetti è stato donato, cioè magari partecipi all'evento, se doni un euro, 5 euro, 100 euro sai quanto hai donato, ma se vai a un concerto paghi 15 euro di biglietto, 20 euro, 40 euro, quanto di questa parte è andata in beneficenza? Un euro? E allora dono direttamente l'euro, non vado a vedere il concerto di Gigi D'Alessio. No, non nel senso, cioè, non in particolare il suo, ma vale per tutti, vale per tutti. Grazie. Roberto da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Io, guardi, condivido questo signore, l'ultimo radioascoltatore, e la penso esattamente come lui. Non condivido la polemica, io sono un avvocato, sono polemico di natura, però non condivido la polemica di questo signore che ha parlato prima ancora, perché se andiamo a cercare tutti questi cavilli, queste storie, queste, non andiamo più a casa. Qui abbiamo delle persone che hanno dei tormenti nella mente e nel cuore, perché la gente fa presto a parlare. Io vorrei metterli là un'ora, due ore, tre ore, terremotati. Hanno fatto tutti un sacco di parole, questo e quello. È una situazione drammatica, una cosa, tutto il mondo sta parlando di noi in questo momento. Ecco, questa è la realtà, bisogna aiutarli, bisogna fare delle cose concrete. Fiorello ha ragione, adesso Fiorello ogni tanto esagera nel bene o nel male, però Fiorello ha ragione. Tutte queste storie, ognuno di noi deve dare qualcosa, punto. Chi può dà di più, chi non può dà di meno. È facilissimo, non è difficile. I ristoranti, tutti i ristoranti d'Italia, ma tutti, dal primo anche grande stellato di Langa o di Toscana, io dico Langa perché sono piemontese, comunque i grandi o i piccoli che siano, sì. dovevano mettere la famosa di spaghetti alla matriciana. 2 euro costo, non so, 5 euro, 2 euro devoluti per tutto l'anno, fino alla fine dell'anno, ancora il prossimo anno ancora. Noi ieri qui a Torino, in Piazza San Carlo, 7.000 persone, 7.000 signori, sì. seduti, 7.000 persone a mangiare questa pasta, la matriciana, fatta bene, fatta male, che poi c'era ancora qualcuno che si permetteva di dire ma non è buona, ma chi se ne frega. Ma che c'entra? C'entra ma bravo, nulla, certo. Ma bravo. Allora le faccio sentire di nuovo Enrico Mentana, che invita a, come dire, a boicottare i complottisti che sappiate che l'incasso non va in beneficenza, eccetera, eccetera, perché secondo lui alla fine sono solo dei tirchi che non vogliono donare neanche un euro. Adesso, soprattutto però in questa fase, quella del dopo terremoto, le fesserie non devono passare. Siccome tra le altre cose si mette in dubbio la solidarietà stessa, dove vanno a finire i soldi delle sottoscrizioni, che è la classica frase che dicono tutte le persone che A, non hanno niente da fare, quindi passano il tempo a scrivere, B, non vogliono dare neanche le 2 euro dell'SMS solidale. Way too long, take me back to my home, sweet home. Allora, né container né case in munatura, ma nemmeno quantomeno tendopoli. Per la prima emergenza dei terremotati si punta a un cantiere leggero e a delle case forse in legno sul genere di quelle costruite a Onna per il terremoto dell'Aquila, un caso virtuoso. E allora noi abbiamo convocato Elia Terzi, che è della Ille Prefabbricati di Pieve di Bono, in provincia di Trento. Buonasera. Buonasera a voi. Che è l'azienda che ha realizzato queste casettine in legno di Onna, che hanno dato ottima prova a quanto sappiamo. Insomma, che tipo di case sono intanto? Quali sono le caratteristiche tecniche? Ma allora, una doverosa premessa: in questi momenti è chiaro che si parla di queste tematiche che coinvolgono anche imprese con imbarazzo da parte nostra, per cui ecco, questo è il primo. Sì, il primo è giusto attito. Dirlo, però questo diamolo in qualche modo per scontato e parliamo, sì, no? Ecco, e facciamo informazione. Noi siamo gente di montagna, siamo sensibili, sì, quindi è giusto dirlo, certo. Innanzitutto è stato un progetto virtuoso, nel senso che comunque ha portato a compimento quella che è la fase di prima emergenza, cioè dando un tetto sicuro, confortevole in pochissimo tempo. E le caratteristiche, oggi poi la tecnologia ha fatto ulteriori passi avanti, sono sostanzialmente dei moduli prefabbricati che vengono preassemblati in stabilimento e poi completati in cantiere. Prefabbricati però non lascia immaginare il classico prefabbricato in muratura, invece qua stiamo parlando in questo caso sono componentistiche, pannelli, travi di legno, tutto di legno, esattamente, dei componenti prefabbricati in legno, quindi un'edilizia leggera, un'edilizia che è stata certificata anche antisismica per interventi ben più specifici, quindi antisismica leggera, che si può smontare al termine, certo, dello smontaggio si può recuperare tutto il materiale e riutilizzarlo. Generalmente, ecco, non sono totalmente recuperabili tutte quelle parti che poi sono finiture o ovviamente, sì, o soggette ad usura. Però una parte importante si può recuperare. Non c'è dubbio. E soprattutto la velocità di esecuzione mi ha permesso, io ho seguito proprio in prima, sì, persona insieme a tutto lo staff della nostra azienda, ma devo dire che come tutti i progetti che possono considerarsi riusciti, è frutto della collaborazione di tutti, in prima persona della Protezione Civile, che è la Protezione Civile di Trento in questo caso, che aveva coordinato tutti i lavori e ha permesso nel giro di circa 2 mesi, anche qualcosa meno, di consegnare quasi 90 casette di questo tipo. Quindi possiamo dire che tra tutti i terremotati, quelli di Onna che hanno avuto il cui coordinamento faceva capo alla Protezione Civile di Trento, hanno avuto la fortuna di avere queste case che hanno dato una buona prova, perché non a tutti è toccato chiaramente queste. Ma allora, io posso parlare chiaramente su quella che è la mia personale esperienza. Sì. Le stesse caratteristiche poi sono state proposte anche per interventi sempre all'Aquila, anche per quelli che poi erano chiamati in modo diverso i MAP, ma di fatto erano dei moduli abitativi provvisori che per quanto ci concerne venivano poi realizzati con le stesse caratteristiche. La differenza secondo me di Onna era che in quel contesto, anche morfologicamente parlando, era stato possibile fare il villaggio subito a ridosso del paese, che della città, era, quindi nelle vicinanze, così come vogliono quasi sempre le persone che hanno subito il terremoto, case poggiate anche su dei terreni per esempio agricoli che dopo possono tornare a essere terreni agricoli, quindi non si snatura nemmeno il territorio. Se il tipo di intervento viene progettato adeguatamente, senz'altro, perché alla fine sono delle opere anche, possono essere anche molto poco invasive, però ripeto, dipende proprio dal contesto e nell'abilità. Qual è però lavori. Allora lo svantaggio? Il costo? Perché se sono solo vantaggi mi verrebbe a dire dovrebbero essere fuori gara, insomma, no? Bisognerebbe puntare allora, dritto su quelle. Diciamo che da un punto di vista dei costi io le parlo di quelli che erano gli interventi sì. Ovviamente di natura diretta di realizzazione fuori terra. Se non ricordo male, nell'ambito di 1000 euro a metro quadro si consegnavano le case complete anche di arredi. E capisce bene che questo è un costo che può essere alto o basso a seconda anche di quello che è poi il comfort e la visibilità che si va a fornire. Perché lei dice potrà essere magari un prezzo più alto rispetto a delle tende, però chiaramente si sta in una casa, non si sta in una tenda, che è un po' diverso, anche se, perché se uno ci deve stare per un mese è un conto, ma se uno ci deve stare per anni, adesso glielo chiedo prima del traffico, poi ci prendiamo la pausa sulle informazioni e mi risponde dopo, ma quelle casette messe lì nel 2009, nei mesi successivi al terremoto dell'Aquila, sono passati 7 anni, saranno ancora lì? Perché allora se è così vuol dire che è un investimento che dura nel tempo. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, con il direttore tecnico della Ille Prefabbricati di Pieve di Bono, provincia di Trento, Elia Terzi, stiamo parlando delle casette che sono state costruite a Onna da questa azienda su indicazione della Protezione Civile e che sono una novantina, mi diceva, di casette. Sì, la nostra azienda si era occupata per la realizzazione di quasi oltre il 50%, poi altre due aziende avevano completato la realizzazione. Per quella parte lì. Intanto ci sono un ascoltatore che dice perché non fate parlare le persone che abitano a Onna e non fate pubblicità alle aziende. Ma ci interessava anche... iniziale era proprio anche dovuto a questo momento. Sì, molto... ma lei non si preoccupi, noi facciamo informazione, raccontiamo quello che c'è da raccontare, chi se ne frega, se devo fare il nome della sua azienda, poi ognuno si fa l'idea che vuole. Beh, mi sembra pubblicità positiva, però cosa facciamo? Non parliamo di chi fa delle cose fatte bene, perché altrimenti facciamo pubblicità, e non può essere così. Queste casette a Onna sono ancora lì? Ma io direi di sì, nel senso che sono state comunque pensate per dare... un prodotto che non necessariamente deve essere usa e getta, anzi sono progettate per essere quasi equiparate ad alloggi sostanzialmente quasi permanenti come concetto di prodotto. Super antisismici, tra l'altro, perché c'è anche una simulazione del CNR, mi ricordava la redazione giustamente, che fa vedere come un palazzo fino a 7 piani costruito interamente in legno regge a un terremoto più grave di quello di Amatrice, regge perfettamente. Ecco, purtroppo è proprio questo il principio, che io poi da tecnico sappiamo che specie l'Italia in mano un prodotto che era all'avanguardia tecnologica, lo stesso progetto è stato, lo stesso star di progetto poi applicato insieme anche a sottoscritto a un progetto di ricerca che con una tecnologia sostanzialmente analoga si è dimostrato che i terremoti sostanzialmente più devastanti tristemente in Italia con quel tipo di tecnologia come con altre non causerebbero i danni. No, anche perché se sicuramente abbiamo detto queste casette costano di più che non mettere su delle tendopoli o dei container, però se l'ospitalità in queste case deve durare il tempo della ricostruzione, sappiamo tutti benissimo che per una ricostruzione definitiva ci vogliono spesso anni, a parte il caso dell'Emilia, un caso abbastanza fortunato dove ci è voluto poco tempo, forse si sta terminando adesso, non tutte le case tra l'altro, quindi 3, 4, 5 anni è il minimo, se non 6, 7 o addirittura anche di più anni. Allora è giusto forse fare un investimento e dare delle case che siano le vere e proprie case, in questo caso di legno, eccetera. Questo non per fare uno spot a favore della sua azienda, ma per dire come stanno le cose. Io la ringrazio per essere stato con noi, dottor Terzi, grazie. E in bocca al lupo, spero che vi richiamino per fare degli altri interventi anche per questo di terremoto. 800 24 00 24. Federico D'Ascoli, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Grazie. Io volevo intervenire per quanto riguarda la prima telefonata che c'è stata oggi per la struttura delle abitazioni che sono state praticamente messe a posto prima del 2002. Perché io chiamo da una frazione a 23 chilometri all'epicentro, sì. E la casa di mio padre è stata praticamente evacuata perché i muri stavano esplodendo, in quanto ci sono quattro solai di cemento armato. Quindi casa di suo padre, è, non ho capito, è crollata o è rimasta in piedi? Fortunatamente è rimasta in piedi. Però, però le mura sono allargate. Quindi adesso è inagibile. È inagibile. E anche mio padre, sì? Sì, tra l'altro mio padre è sulla sedia a rotelle da 15 anni. E quindi diceva che anche in questo caso i solai erano in cemento armato pesanti. In cemento armato, esatto. E poggiavano sui muri di pietra. E posavano sui muri di pietra e non c'erano praticamente i famosi tiranti, no, che si sente parlare, le chiavi, no, che si dovrebbero mettere in teoria. Però c'erano dei progetti prima del 2002, sì. La casa di mio padre è stata appunto ristrutturata nel 97, dove accettavano il fatto di poggiare le strutture di cemento armato su questi muri da 80, da 90 centimetri. Quindi una casa ristrutturata nel 97, anche in epoca recente, abbastanza sì. recente per un fabbricato, però... Pur tuttavia, in base alle norme dell'epoca, ma evidentemente norme che non andavano. Il solaio di cemento armato, è quello il problema. Poi tra l'altro qui ce ne sono tre di solai. E il problema fondamentale, secondo me, è stato il terremoto che non è stato ondulatorio ma sul sussuolo. E quindi il peso è andato a gravare ancora di più sulle pareti portanti. E quindi le pareti esplodono. Io ho conosciuto tante persone adesso, sì. parlando in questi giorni, che mi dicono che hanno la stessa situazione. Ci sono delle frazioni dove delle case, tipo questa di mio padre, che non sono state, diciamo, troppo lesionate. Voglio dire a tutti quanti, chi ha una casa del genere stia attento, che metta delle chiavi, che faccia dei lavori. Perché sono case apparentemente ristrutturate, stabili, dove c'è esatto. stata messa mano e uno pensa di poter stare più al sicuro. Invece paradossalmente sono più pericolose perché questi solai di cemento armato vengono giù quando c'è un terremoto. Il peso strutturale della casa. Quando, cioè, parliamo degli anni 40-30, sì. quando sono state fatte le prime case, c'erano i solai fatti di legno, di travi. Paradossalmente quindi, avrebbero potuto reggere di più quelli che non... Sì, perché gli ingegneri che sono venuti giustamente hanno detto che il solaio ballando insieme alla casa, non essendo un corpo rigido come cemento armato, sì. Ballava insieme ai muri. Sì, quindi le case... Avrebbe assorbito gli urti invece che esatto, venire giù come se fosse un tappo di ferro sopra un castello di sabbia. Bravissimo, esatto. Infatti ci sono case che hanno retto i terremoti del 72 famosi qui nella nostra zona. E c'è tra l'altro vicino a casa mia un rudere disabitato che non è venuto giù perché ha i solai di legno. Questo però è come dire che gli interventi fatti in quel periodo lì, almeno negli anni, adesso lei ci ha citato l'anno, se lo ricorda, il 97, hanno addirittura peggiorato le cose che non rimanere fermi come erano prima le case. Cioè era meglio tenersele più vecchie, con i solai, con le travi di legno, piuttosto che questi interventi fatti dopo. Questo è preoccupante però, eh? È preoccupante però, consideriamo che hanno fatto mettere tra le vie di fuga dei mattoni a vista, sì. il cemento sia dentro che fuori, però portando un muro da 80 centimetri queste case erano fatte all'epoca con la sabbia internamente, non è che dentro c'è stata sparata un'iniezione di cemento, queste cose qui. Quando hanno fatto i progetti si poteva fare in quella maniera. Però chi ha firmato i progetti parliamo però di 20 anni fa, non di 200 anni fa, e ripeto, è impressionante, per me è inquietante quello che sta avvenendo fuori. E c'è stata praticamente la visione qui di un ingegnere che è venuto a vedere casa di mio padre, sì. e ha detto: noi siamo stati fortunati che ci troviamo a 23 chilometri dall'epicentro, altrimenti certo lei si sarebbe stato un altro. Tutte le case fatte in questa maniera sono venute giù tutte lassù, tutte completamente. Grazie Federico, buona serata. Grazie Roberto da Udine. Prego. Buonasera. Buonasera. Sono un architetto di 65 anni, sì. e quindi 40 anni fa mi sono preso il primo impegno nella ricostruzione del Friuli, e da quella volta ho proseguito con una particolare attività che mi ha portato a fare i controlli. Lei era già architetto dove il terremoto del Friuli? Era all'inizio? Era diciamo neurolaureato, ma sì. Ho già in quegli anni lì avuto subito degli impegni molto forti. Ho condotto anche un consorzio di oltre 100 imprese per la ricostruzione e posso dire alcune cose molto semplici. Sì. Intanto, ne salta fuori da tutte le parti, i centri storici sono una cosa, e quindi le costruzioni fatte in ambito diciamo terra, sassi, eccetera, e una cosa sono le nuove costruzioni. Nei centri storici ci vuole una mano molto molto leggera, perché si possono restaurare, ma bisogna conoscere le tecniche di come funzionano queste cose qua. Roberto, andiamo avanti dopo, dopo il giornale radio, perché adesso devo dare la linea al GR. Ci risentiamo dopo. 800 24 00 24. Ma cos'è quest'estate? Semplice, il nuovo appuntamento con l'attualità di Radio 24. Dal lunedì al venerdì alle 8, le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Deborah Rosciani alle 8 su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I know you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. Sono rimasta con Malagò, che ci saremmo sentiti dopo l'estate. È il 28 agosto, l'estate non è ancora finita, ci sentiremo. Allora, io ritengo che tutto questo discorso sulle Olimpiadi debba essere rinviato a dopo l'incontro che avrò con il presidente Malagò. Iniziamo a promuovere uno stile di vita sano, sin dalla scuola, con un'alimentazione corretta, con una pratica sportiva quotidiana. Nel frattempo ricordo, come già ho fatto quando ho incontrato Malagò, che Roma è una città piena di impianti sportivi comunali, ne abbiamo circa 160 e sono in condizioni disastrose. Disastrose, quindi sa, le Olimpiadi, prima che un atleta arrivi alle Olimpiadi, deve crescere nello sport, no? Perché si cresce. Allora, messaggi, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizio, ascoltatori con Si può fare, 800 24 00 24. Dicevo, messaggi al 349 invece, 238 6666, ci lasciano fare le case in legno dappertutto, non crollano, dice Roberto. Ha ragione, più case in legno per tutti, ma se queste casette, dice un altro ascoltatore, hanno un valore quando sarà completata la ricostruzione, perché non considerare di venderle con finalità turistiche? Giusto, anche questa è una possibilità, le casette in legno si riutilizzano, quindi più casette in legno per tutto, meno tendopoli, zero tendopoli, soprattutto zero container. Allora, è con noi Laura Castelli, onorevole del Movimento 5 Stelle, grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera. Portavoce. Allora, sì, portavoce tra l'altro in questo momento alla Camera, vero? Sì, certo. Esatto. Allora, quello del sindaco di Roma, Virginia Raggi, non è proprio, abbiamo sentito le voci all'inizio programma, un no secco, insomma, è un no però, devo vedere ancora Malagò, avevamo detto entro la fine dell'estate, l'estate non è ancora finita, sembra un po', perdoni la citazione cinematografica, quell'Anni Moretti che diceva, ma mi si nota di più se vengo o se non vengo, se vengo mi metto da una parte o se non vengo. C'è un po' di imbarazzo adesso il Movimento 5 Stelle su queste Olimpiadi di Roma? Guardi, nessun imbarazzo, è normale che un sindaco di una città come Roma, ma come tutti i sindaci, facciano degli incontri istituzionali, non c'è proprio nulla di strano, sono tra l'altro incontri doverosi. Il Movimento 5 Stelle, la linea sulle Olimpiadi l'ha sempre annunciata in maniera chiara, addirittura alla Camera abbiamo presentato una mozione coordinandoci con tutti quelli che hanno lavorato su questo tema, in cui chiedevamo proprio di non fare le Olimpiadi del 2024 e di occuparsi di promozione dell'attività sportiva di base, sviluppare dei programmi pluriennali di investimento, perché quello che diceva ieri Virginia Raggi è vero, siamo pieni di strutture fatiscenti per l'attività sportiva, come pensiamo di costruire i nostri sportivi senza delle strutture adeguate? E la nostra posizione non è assolutamente di imbarazzo, anzi è molto chiara. No, però c'è una presa un po' di tempo, no? Sembra che ci sia un po' una presa di tempo da parte del sindaco a dire... Sembra, ma non è così, sembra forse all'informazione, alle istituzioni. Le incontri istituzionali un sindaco li deve fare e certamente non può non incontrare un'autorità, insomma, come Malagò. E quindi la incontrerà e la nostra posizione, ripeto, è chiara. Ma è solo un dovere istituzionale oppure da questo incontro, se il progetto delle Olimpiadi per esempio cambiasse e diventasse, che ne so, più ci fossero più investimenti nello sport di base, no? Più investimenti negli impianti della città, eccetera, eccetera. Questo renderebbe più facile dire sì? Non penso che questo lo possa decidere Malagò. I soldi delle Olimpiadi sono questioni che riguardano il governo e sappiamo benissimo che cosa il governo ha fatto, poi ha modificato rispetto alle Olimpiadi. Quindi non credo che Malagò si possa prendere la responsabilità di dire da domani per me le Olimpiadi per farle a Roma cambieranno e gli investimenti saranno... Ma se questo dovesse accadere, cioè se effettivamente il progetto delle Olimpiadi diventasse un progetto nel quale c'è questa previsione di investimenti in quello che dite voi, cioè nello sport di base, negli impianti, nei 150 impianti della città, eccetera, eccetera. Questo cambierebbe la valutazione? Ma ad oggi il governo non ha presentato questo e le dico di più, non ha neanche provato a migliorare la mozione che noi abbiamo presentato alla Camera, momento in cui si poteva tranquillamente discutere proprio di questo tema. E parliamo del 25 gennaio del 2016. Sì. Quindi io credo che ad oggi il governo non abbia nessuna intenzione di modificare la struttura delle Olimpiadi di Roma del 2024. Questo è quello che può avere in testa il governo, però io le rifaccio la domanda in un altro modo, che invece riguarda voi. È più difficile dire no alle Olimpiadi quando sei al governo che non quando sei all'opposizione? Questa è una domanda. Guardi, io credo che chiunque governi e governerà questo paese debba fare delle scelte chiare che vanno nell'interesse dei cittadini senza sprecare un solo euro di soldi pubblici, e lo debba fare nell'interesse non di quelli che normalmente hanno mangiato con i governi precedenti, perché le dico la verità, io vengo da Torino e le Olimpiadi di Torino le ho vissute sia come come dire spettacolo, come manifestazione sportiva, ma le ho vissute anche come debito pubblico sui cittadini di Torino, le ho vissute come strutture fatiscenti che sono diventate oggi piene di erbacce, le ho vissute anche come fondazioni costruite ad hoc per gestire situazioni che la politica non vuole gestire, le ho vissute anche con i commissariamenti straordinari a seguito delle Olimpiadi. Quindi io dico semplicemente che dipende dalla forza politica e dalla, mi permetta di dire, onestà e chiarezza e trasparenza che un governo ci mette nel fare questo genere di eventi. Ad oggi la nostra storia, ma quella di anche molti altri paesi nel mondo che hanno fatto le Olimpiadi, non fa ben sperare. E oggi i dati sono chiari. Chi oggi governa questo paese non vuole le Olimpiadi fatte in un certo modo e probabilmente non attenziona neanche quelle che sono state le nostre i nostri punti, le cose che noi avremmo voluto e abbiamo attenzionato. Sì, ma questo però non è detto che cambi, perché io glielo ripeto, invece il governo potrebbe, proprio perché adesso al governo c'è Virginia Raggi, ci siete voi, cambiare il progetto in qualche modo e destinare maggiori fondi alla città e meno fondi magari o più fondi alla città. Insomma, cambiare il progetto e diventare più allettante per voi. Questo non lo può escludere, però. Io non escludo niente, guardi, non escludo mai niente. Dico che la nostra posizione è chiara e che oggi le Olimpiadi, fatte in una città che ha un sacco di problemi, sono uno spreco e questa è la posizione che noi abbiamo sempre messo nero su bianco, facendola votare alle forze politiche che si sono espresse in maniera chiara. Sì, perché lei citava il caso di Torino, che ha ospitato le Olimpiadi invernali, credo fosse il 2006. Esatto. E una città che secondo alcuni è anche migliorata in alcune zone del centro e della periferia, ma una città che ha avuto per esempio in eredità le solite strutture inutilizzate, tipo il villaggio olimpico, che oggi è occupato da immigrati, da migranti, da richiedenti asilo. Quante centinaia di persone ci sono adesso? Sì, non è l'unica struttura che insomma oggi non ha più quella funzione per la quale era stata pensata e costruita. Torino è costata 3,5 miliardi di euro, il governo ne aveva stanziati 1,4 sì. E i comuni e la regione ne avevano messi circa 600 milioni di euro. Poi ci sono stati gli sponsor, il marketing, eccetera. Io le posso dire che la Guardia di Finanza ha lavorato molto su come si sono mossi i soldi. Certamente un torinese poco attento ha visto una Torino migliorata, senza dubbio è una Torino su cui si sono messi dei soldi e si è investito. Questo però non basta. Oggi il debito di Torino, in questi giorni insomma ci stiamo lavorando al comune, perché lei sa che si deve chiudere il bilancio dell'anno prossimo. È una città in forte difficoltà perché ha fatto delle scelte non corrette sulla gestione dei soldi. Certo è una città che è migliorata, ma non ha dato quel fabbisogno che il cittadino voleva. Oggi a Torino un sacco di palestre non hanno gli orari opportuni per farci andare i ragazzi, hanno difficoltà nella manutenzione, non ci sono soldi per fare la giusta manutenzione e un sacco di strutture appunto sono vuote, sì. Delle volte utilizzate per altri scopi. Poi guardi, ma infatti è proprio quello, scusa, è proprio quello che le dicevo io, cioè il fatto che adesso voi governate Roma potrebbe essere una garanzia che le Olimpiadi diventano un evento utile a Roma e non solo a chi lo fa. È questo che voglio dire, proprio perché ci siete voi che avete a cuore questo tipo di problematica. Malagò e la sindaca Raggi parleranno, discuteranno. Io ribadisco, non ho sentito il giorno che sentirò il presidente del Consiglio Renzi dire abbiamo sempre sbagliato con le Olimpiadi, questo atteggiamento non è corretto, bisogna investire in una maniera diversa sullo sport, sulla promozione, magari penserà di fare qualche atto politico diverso. Ad oggi non mi risulta. Sì. Senta, invece una cosa sul terremoto, secondo lei come si sta muovendo il governo sull'emergenza del dopo terremoto? Vi siete fatti un'idea? Guarda, io ho visto un po' di scivoloni, ho visto un Renzi nominare Errani, che insomma non è proprio il personaggio migliore, che insomma aveva già gestito, se non sbaglio, il terremoto dell'Emilia Romagna e lì abbiamo visto insomma cosa è successo. Ci sono state delle indagini che hanno portato alla luce anche connivenze con la criminalità organizzata, certo non è colpa di Errani, ma insomma non è proprio il personaggio migliore secondo noi per gestire questo tipo di emergenza. Ho visto un Vespa e un Del Rio parlare di aumento del PIL su quello che è la ricostruzione. Io mi permetto di dire che il Movimento 5 Stelle ogni anno, io faccio parte della Commissione Bilancio, propone gli investimenti nel dissesto idrogeologico e nella prevenzione del territorio, e ogni miliardo investito in dissesto idrogeologico crea 7.000 posti di lavoro. Io preferirei parlare di quel PIL invece che PIL che si costruisce. Questo è verissimo, questo è verissimo, assolutamente. Io posso dire che anche noi con Si può fare, con Radio 24 ci abbiamo provato tante volte a rilanciare questo argomento. Mi ricordo. Questo sarebbe il PIL buono. Giusto per parlare del titolo del suo programma, Si può fare, quello di fare della buona prevenzione sul territorio su cui viviamo. E 7.000 posti di lavoro, ribadisco, non sono pochi per ogni miliardo investito. E in Commissione Bilancio, come dicevo prima, è una delle nostre più grandi battaglie, è sempre bocciata dal governo. Oggi l'ho detto più volte, insomma, non è possibile dare come risposta non ci sono i soldi. Sì. I soldi ci sono, bisogna decidere dove metterli e le dirò di più. Delle volte la politica deve fare delle scelte che non hanno un ritorno elettorale immediato, perché magari i lobbisti di turno o le grandi multinazionali non apprezzeranno magari un investimento come il dissesto idrogeologico, perché fa lavorare le piccole imprese. Però questo è un aspetto, questo del dissesto idrogeologico, che andrebbe affrontato assolutamente investendo molto più di quello che il governo ha stanziato, credo 900 milioni, un piano di cui soltanto forse una minima parte è andata a buon fine. Ma sì, adesso che comunque c'è anche la questione delle case da ristrutturare, dell'edilizia sì, privata, come lo affrontereste voi? Cioè, avete una linea da questo punto di vista? C'è una questione di incentivi che andrebbero aumentati, va reso obbligatoria la ristrutturazione, che cosa bisogna fare secondo voi? Allora, noi ragioniamo su due livelli: uno è la ricostruzione, e devo dire che l'Italia, che ha sempre delle menti e delle professionalità spiccate, conosce grandi ingegneri che hanno già fatto ricostruzione andata a buon fine senza deturpare il territorio e ridando esattamente quell'impronta che c'era in quei comuni, mettendo in sicurezza la propria città. E quindi bisognerebbe far tesoro di quei professionisti che si sono occupati di questi temi, delle ricostruzioni. Poi c'è la parte fiscale. Noi crediamo che si debba parlare di sospensioni e differimenti di tributi e contributi, come abbiamo già proposto più volte per altri terremoti come quello dell'Aquila. Quindi parliamo di sospensioni e differimenti diversamente di alcuni tributi. In questo momento i cittadini stanno pagando per esempio l'IRPEF, no? Quindi le rate dell'IRPEF. Io mi immagino una famiglia, capofamiglia, un imprenditore anche piccolo, che deve pagare i contributi previdenziali, deve pagare l'IRPEF dell'anno successivo, l'acconto dell'anno prossimo, e che sarà sicuramente in una difficoltà immensa, perché quei pochi soldi che ha li spenderà per assicurare un tetto alla propria famiglia. E parliamo per esempio della sospensione delle cartelle di Equitalia, delle rate dei mutui, tutte proposte che noi abbiamo già fatto e su cui abbiamo veramente battuto moltissimo anche in altri momenti, come il post terremoto in Emilia Romagna. Poi ci sono le detrazioni delle ristrutturazioni antisismiche, e qui mi permetto di dire che le ristrutturazioni, il famoso 65% di detrazione, oppure i bonus che riguardano il bonus per ricostruire in maniera ecologica, ecco, tutti gli anni vengono non messi in maniera strutturale nella politica che il governo fa. Noi diciamo anche che un incentivo del 55% in 10 anni restituito in 10 anni è poco, e evidentemente non serve a chi deve affrontare una spesa di 20, 30, 40, 50 mila euro per ristrutturare a norma antisismica un immobile. Grazie, ci fermiamo qua, abbiamo la borsa, grazie all'onorevole Laura Castelli per essere stata con noi. 800 24 00 24, ci risentiamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buonasera ad Alessio Maurizi. I nostri contatti: si può fare a radio24.it chiocciola, si può fare 24, l'account su Twitter è il mio chiocciola Ale Maurizi. Allora, al 349-238-6666, messaggi sulla commissario post terremoto in Emilia. Errani, ottimo commissario per il terremoto in Emilia e nel Mantovano, persona per bene. I 5 Stelle non facciano politica, lo dico non da filo governativo, Franco. Beh, in effetti il terremoto dell'Emilia, la ricostruzione viene considerata un caso abbastanza virtuoso, abbastanza, non è che si vuole elogiare chissà cosa, però insomma il rapporto ad altre passate esperienze. Poi un'ascoltatrice che chiama che scrive da Roma: ieri sera intero incasso di oltre 15.000 euro, reso pubblico con Facebook, dello spettacolo teatrale al Globe Theater di Villa Borghese diretto da Gigi Proietti. Io ci sono stata e mi fido, dice Grazia da Roma. Brava, perché bisogna pur fidarsi anche di qualche cosa, no? E qui però è l'intero incasso che viene devoluto, è un po' diverso che a dire una parte del ricavato che diventa misterioso, non si sa mai poi quanto effettivamente va ai terremotati e quanto invece nelle tasche degli artisti o di chi ci ha lavorato. Carlo da Pordenone, buonasera. Buonasera a lei. Prego. E agli ascoltatori. Io ho chiamato perché volevo sottolineare essenzialmente due cose. Benissimo i prefabbricati in legno, perché hanno una buona durata, consentono specialmente nei paesi di montagna di un adeguato riparo dagli agenti atmosferici, sì, perché possono essere realizzati in campi attrezzati anche per quanto riguarda acquedotti, fognature, eccetera, vicino ai paesi anche piccoli, e se effettuato un'adeguata manutenzione possono durare molto nel tempo. In Friuli ce ne sono ancora che vengono utilizzati per fini turistici e si conservano. Cioè in Friuli nel senso, quindi dopo 40 anni, case di legno nate per il post terremoto che sono ancora lì e vengono utilizzate per che cosa? Sì, o come piccole seconde case o, sì, o specialmente in montagna. Capite, 40 anni sono durate, cioè perché dovremmo fare delle altre tendopoli o se non nell'immediata emergenza, guardi, o dei container o delle altre cose orrende, comprese case in muratura che sono delle mezze case. Queste sono case in legno che possono essere smontate se serve, rimontate altrove se c'è un'altra necessità, possono andare avanti per anni. E quindi tutta la vita le case di legno. Grazie Carlo, buona serata. Luigi dalla provincia di Chieti. Buonasera, grazie, buonasera, di avermi chiamato. Buonasera. Prego. Salve. Senti, niente, io volevo semplicemente fare un appello ai nostri bravi parlamentari, che ne sono, sì, circa 960, ne basterebbero un terzo, lei lo sa meglio di me, insomma, di questi parlamentari, se vorrebbero devolvere l'intero stipendio di agosto, di settembre, di dicembre, quello che vogliono, interamente ai terremotati, a questi poveri cristi che hanno subito questa grave, grave mancanza, insomma, tutto qua. L'intero stipendio? Sì, un intero seno, chiaramente non morirebbero di fame, poverini, insomma, visto quello che prendono, insomma, questi, o intero oppure la metà basterebbero, insomma, per cercare di fare qualcosa di bene, insomma, per questi poveracci. Sì, vabbè, Luigi, ma non solo loro, cioè anche... sì, i nostri bravi parlamentari. Dopo un'altra cosa, gentilmente, sì, dei 2 euro che come me tanti milioni di italiani hanno donato, sì, ai terremotati, volevo sapere se è possibile sapere quanto effettivamente arriva nelle tasche o nelle tasche per la ricostruzione. Allora un momento, perché dipende che donazione ha fatto lei. Se ha donato tramite SMS vanno direttamente alla, credo alla Croce Rossa che sta gestendo questa grande raccolta nazionale, e non lo so, credo che sulla Croce Rossa possiamo mettere tutti la mano sul fuoco, vanno a loro e poi vengono utilizzati per i terremotati. Se ha fatto un altro tipo di donazione non lo so, bisogna vedere a chi ha donato. Luigi, no io ho donato come tanti milioni di italiani 2 euro tramite SMS, quindi la date alla Croce Rossa, bisogna affidarsi di quello che fa la Croce Rossa, non c'è niente da fare. No, speriamo, perché tra tante altre donazioni uno arriva il 20-30% insomma di quello che uno effettivamente dona, il che non è giusto, insomma. Se uno deve fare donazione lo devono fare tutti quanti, artisti, cantanti e compagnia bella, insomma. Ognuno fa quello che può, che crede, appunto, ed è giusto così. Va bene, grazie Luigi. No, sì, insomma, sì, sì. Buona serata, buona serata. Fabrizio da Piacenza. Fabrizio, buonasera. Buonasera, salve Maurizio. Ecco, io volevo semplicemente fare un'osservazione. Sì. Premesso che io non sono un fan di Gigi D'Alessio e non andrei mai a un suo concerto, ma per una questione di gusti musicali, naturalmente. Sì, sì. Non capisco la polemica di Fiorello, francamente. Perché al di là del fatto che un artista ha un suo cachet, probabilmente, no? Che è già al netto delle spese che sostiene per l'organizzazione del concerto e quant'altro, io il mio cachet lo devolvo alla questione, alla situazione dei terremotati. Il problema, scusi, dov'è? Il problema, che quello che pagati, dice Fiorello, è che non è in polemica con Gigi D'Alessio, è in polemica in generale con, come dire, con questa modalità di beneficenza. Allora glielo faccio risentire l'audio, perché lui lo spiega abbastanza bene. In sostanza lui dice, se volete fare se sei un artista e vuoi fare beneficenza, dona direttamente 5, 10, 20 mila euro che vanno direttamente senza dire niente a nessuno, anziché farti anche bello, farti pubblicità, per esempio, questo lui non lo dice mai implicito nel suo discorso, in una modalità che non è trasparente, perché tu hai incassato 100, poi devi pagare le maestranze, devi pagare, a meno che anche loro non siano d'accordo nel donare tutto quello che avrebbero guadagnato quella sera lì. Siccome non è così, si finisce per sottrarre il manager, l'imprenditore, l'affitto del posto, eccetera, e non si sa quanto va in beneficenza, ed è troppo poco. Senta. Sono stato già invitato a almeno quattro manifestazioni per raccogliere fondi. Occhio a queste manifestazioni che facciamo noi del mondo dello spettacolo, perché non solo una piccola cosa voglio dire, perché il gioco deve valere la candela, perché se io faccio uno spettacolo, organizzi uno spettacolo e poi per fare questo spettacolo devi spendere dei soldi, perché devi preparare il palco e quelli vogliono essere pagati, perché devi, cioè che devolvi, non devolvi tutto, ma devolvi tutto tranne, capito, le spese per, allora non lo fa. Per quanto mi riguarda, io preferisco fare, ognuno a modo suo, capito? Io preferisco fare la mia beneficenza privata, sono fatti miei, la faccio io, nessuno sa niente, per carità. Ma queste cose troppo amici, tutti insieme andiamo e cantiamo, cioè se allora la dobbiamo di aiuto c'è bisogno di cantare. Dai i soldi direttamente e il gioco è finito, va bene. Ecco, questo qua era il punto di vista di Fiorello, è chiaro, Fabrizio. È chiaro la posizione di Fiorello, però ripeto... È vero che la modalità può essere discutibile, nel senso, organizzo un concerto, quindi c'è un aspetto anche mediatico, c'è un ritorno d'immagine e quant'altro, siamo d'accordo. Però comunque è il suo cachet che dona, e il suo cachet è sicuramente al netto di tutte queste spese. Quindi se magari lo dichiara prima, io guardate, per questo concerto prendo 100, fate salve le spese 50, 20, 30 dei tecnici. Quello che ho ricavato lo dono direttamente, perché mi sembra che abbia dichiarato che lui stesso vorrebbe recarsi dal sindaco a consegnarglielo personalmente, mi sembra. Sì, la polemica tra virgolette la capisco, perché comunque dal punto di vista dello stile, diciamo, potrebbe essere discutibile, perché comunque c'è un ritorno mediatico. Cioè, guardi, io penso questo, che Fiorello invita a riflettere, a fare una riflessione su questo. Dopodiché io personalmente penso che ogni euro donato sia un euro in più. Quindi se uno fa un concerto, fa quello che gli pare e dona anche se fosse il 10%, meglio di nulla, no? Questo è meglio di nulla. Però poi lo spirito era quello del mio intervento. Va bene, grazie. Ciao, Fabrizio, buona serata. Carlo da Brescia. Buonasera, dottor Maurizio. Io chiamo perché dopo ogni evento sismico rilevante mi trovo a leggere e a sentire affermazioni che vanno dall'inesattezza alla castroneria. Per quanto riguarda tutto quello che riguarda la sismica e l'antisismica in Italia, e sono... Cioè, in difficoltà perché non so da che parte iniziare. Adesso volevo fare una riflessione sulle case, sugli edifici in legno, perché ne avete parlato, ne state parlando voi, come ne stanno parlando. Cominciamo magari da quello che è stato detto qua, perché così siamo coerenti con quello che abbiamo detto noi, non diciamo quello detto. Sono state dette delle inesattezze, perché è vero, la casa in legno può essere una casa sicura dal punto di vista sismico, ma come lo può essere anche una casa in calcestruzzo, in muratura, dipende semplicemente da come... Assolutamente, costruita. Ma quella frase lì è stata detta all'interno di un contesto. Il contesto quali case, quale soluzione diamo temporanea alle persone in attesa che si rifacciano una casa vera? Siamo d'accordo, però poi quando si dice che una casa in legno può essere smontata e rimontata tranquillamente... Se si fa un'analisi economica, un'analisi dei costi, questo non ha più senso. Le garantisco che non tanto per la parte strutturale, ma deve pensare quello che all'interno di una casa oggi ci deve essere, dall'isolamento all'impiantistica, ai rivestimenti, ai mobili. Quindi sono delle affermazioni che hanno una base di verità, ma che poi dal punto di vista della fattibilità vera non stanno in piedi. Un problema molto grosso, mi creda, è che la maggior parte del patrimonio costruito italiano non è a norma sismica. La cosa più grave è che ci sono gli edifici strategici, gli edifici sensibili, gli ospedali, le caserme. Assolutamente, quelli che dovrebbero essere i più sicuri e sono invece i primi a venire giù spesso. Che non sono a norma. E poi deve pensare che il resto del costruito, quindi il costruito storico, il costruito anche pregevole che ha dei secoli, non è sicuramente adatto a sopportare sismi di una certa entità, e mettere a norma, quindi fare un adeguamento di questo patrimonio, ha dei costi esorbitanti. E la cosa che mi fa più rabbia è che, le assicuro, guardi, io ho fatto la campagna dell'Aquila, ho fatto la campagna dell'Emilia e adesso farò anche la campagna di Amatrice, ma sì, però problema... scusi Carlo, ha dei costi esorbitanti, non sempre, in Lunigiana l'abbiamo parlato l'altra sera, o ce lo siamo sognato oppure ce l'ha detto anche il sindaco, con le catene hanno tenuto insieme le pareti delle case che non sono venute giù col terremoto. Sì, guardi, le assicuro. Cioè, però bisogna fare degli interventi ragionevoli, non fare i solai di cemento armato sopra i muri di pietra. Questo i credo. Solai di cemento armato e muri di pietra sono interventi fatti per esempio negli anni 70 da progettisti che in buona fede, ma senza avere cognizione dal punto di vista sismico, hanno fatto dei disastri. Ecco, io l'ho visti all'Aquila quando ho fatto... Allora, diciamo questo, diciamo le cose come stanno e mettiamo i puntini sulle i, perché altrimenti dire che questi interventi hanno costi esorbitanti, sono interventi che hanno costi bassi, tipo le catene, e che in alcuni casi sono serviti. Altri interventi, tipo quello della scuola di Amatrice, 500.000 euro, la scuola è venuta giù. Questo bisogna dire. Sappiamo anche i motivi, ma guardi che le catene sono fondamentali, sì. Non dico questo, però il costruito italiano, se lei prende una casa isolata in muratura, la può, diciamo, adeguare o quantomeno migliorare con un po' di accortezza, ma quando lei va nei centri storici delle nostre città, nei centri storici, gli agglomerati urbani, gli aggregati, sono una cosa indicibile, lì lei ha voglia di mettere catene. Vabbè. Guardi, le assicuro, qualunque ingegnere che è specializzato nel campo e qualunque ingegnere che ha fatto le campagne sismiche e ha visto gli effetti, le può... Le difficoltà ci sono, ovviamente, non mancano. Grazie Carlo, buona serata, grazie. Oh, adesso è il momento di ascoltare la musica. È il momento dell'Accademia della Crusca, è con noi il presidente Claudio Marazzini, buonasera. Buonasera, buonasera. Ben ritrovato Marazzini, allora, qua stiamo parlando di una parola nuova, di un neologismo, però è presto per dire neologismo, perché noi abbiamo bisogno che passi attraverso di voi questo neologismo, e la parola è webete. Sì. Ma dunque, intanto ho dato un'occhiatina in rete, c'è qualcuno addirittura che contesta che sia un neologismo. Che c'era già da prima che lo dicesse Mentana. Sì. E in effetti mi è venuto in mente che c'è un libro in onore di De Mauro che parlava di webete, però in un senso diverso. Uh-huh. Perché il webete era quello che credeva che internet fosse solo la rete. Quindi diciamo era uno che non capiva, che non sapeva, bene, un ignorante, che non, ignorava, che ignorava. E invece qua Enrico Mentana l'ha presa da un altro punto di vista. In senso diverso. E io penso che sia un neologismo, nonostante appunto questa contestazione, perché risemantizzare una parola poi piuttosto rara, perché era stata in rete, gira anche l'indirizzo di posta elettronica del presunto inventore, però bisogna stare attenti a non credere a tutto, perché sennò si diventa webety. Appunto, no? Appunto. Quindi bisogna stare molto attenti, essere molto cauti. Sicuramente Mentana ha coniato una parola che serve, perché proprio giorni fa leggevo un'intervista di Travaglio, cui Travaglio, con quella... atteggiamento focoso che lo contraddistingue. Atteggiamento, scusi? Focoso. Ah, ho capito fumoso, avevo capito focoso, aggressivo. Sì? No? Però aveva pienamente ragione, accusava le discussioni che si svolgono nella rete che sembrano le discussioni del bar del calcio, insomma, in cui non si ascoltano gli argomenti degli altri, in cui si è fermi, cioè, ma direi quasi peggio, mi scusi Marazzini, perché sì, in effetti mentre al bar del calcio uno ci rimette la faccia con gli amici se sostiene una tesi, in rete uno può usare A, un account finto, B, anche se l'account è vero, puoi sparare quello che ti pare, entri in una discussione e diciamo ti copri dietro il fatto del virtuale per vomitare bile, perché la definizione usata da Mentana è proprio questa, cioè quelle persone che complottano di tutto. E anche Travaglio diceva le stesse cose. Esattamente. È una parola che indubbiamente ci serve e ci farà riflettere. Se poi possa avere la sorte bellissima di Petaloso, un altro discorso. Prima di tutto, perché c'è una differenza, cioè che Petaloso era una parola proprio quello che ci serviva, cioè diciamo una parola liberatoria. Era una parola bella, divertente, era una giocosa. Parola bella, che veniva da un bambino, sì, che definiva un universo di ottimismo. Non è un caso che il Presidente del Consiglio l'abbia utilizzata subito, no? Sì. È molto abile a cogliere queste cose, quindi... Però è un po' morta lì, Petaloso è un po' morto lì, cioè era bello. Ogni tanto, beh, oddio, sa, naturalmente poi Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia, gli diceva, sì, dice, bisogna anche andare a vedere non solo se una parola è ben costruita, ma se ricorre, ma se viene utilizzata, se ne è davvero bisogno. Ce n'è bisogno, no? Bravo. Invece allora, di Webete mi sembra di sì. C'è più bisogno di Webete, però naturalmente è una parola meno lieta, meno ottimistica e forse anche meno politicamente corretta, perché insomma è logico che comunque è assomiglia a un insulto, quindi naturalmente entrerà in contesti non rilassanti. No? Però certo, visto che lei ha detto il neologismo è ammissibile, allora cominciamo a dare una definizione. Chi è il Webete? Perché intanto devo dire una cosa, anche noi in radio, ahimè, ci difendiamo, perché chiama l'ascoltatore Mario da Bergamo e dice quello che gli pare, nascondendosi magari dietro un nome di fantasia, e può essere un po' webete anche lui, anche se non sta usando il web. Webete, certo. Guardi, io recentemente sono andato a fare un esame, sì, proprio quello in cui ho visto l'intervista di Travaglio, su argomenti di natura scientifica, pseudoscientifica. Per esempio, se uno fa una ricerca in rete sul problema delle vaccinazioni, sì, e lì può vedere cosa significa. La considerazione, guardi, era questa. C'è una tecnica molto interessante, molto semplice da usare, che consiste nel prendere un pezzo della rete. Io ho preso un pezzo in cui c'era una spiegazione scientifica del motivo per cui le vaccinazioni sarebbero pericolosissime. Sì. No? Ho lanciato una ricerca e ho scoperto che identico questo pezzo, identico, era ripetuto in 20 o 30 siti. Tutti l'hanno ripreso. Cioè, lo stesso, è la stessa fonte, cioè, presunta, quindi, che si ripete. Ecco, che si moltiplica all'infinito e acquista più verità, non per il fatto che viene da un sito importante, l'ospedale San Raffaele, l'associazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma perché viene copiato e ripetuto. È verissimo, è verissimo. E prende forza da una ripetizione, no? Senza che poi si conosca l'origine. L'importante ovviamente è la fonte, non la ripetizione. Quasi che la viralità, no? Cioè il fatto che venga ribattuta da tante persone dia un valore scientifico, una verità. Certo. Quindi i rischi delle reti, insomma, li conosciamo, poi sono stati scritti libri e libri, no? su questo argomento. E quindi la parola di Mentana... può darsi che sia una parola necessaria, ma il Webete, secondo lei, no? Perché sì, è più un boccalone che abbocca a questa cosa qua, oppure è quello che ci mette proprio una finalità, perché Mentana dice questo non lo fanno per nulla, sì, lo fanno per avvelenare i pozzi. Beh, allora è peggio se Webete, probabilmente allora se uno ci mette la malignità e la malafede è un altro discorso. Temo però che la stoltezza navighi a volte proprio nella incapacità critica. Ebete in sostanza è ottuso, al contrario di acuto, e quindi è quello che non ci mette il lume dell'intelligenza, quello che non sa penetrare nel problema ma beve tutto, no? Quindi direi che l'ebete è l'ingenuo della rete, l'infatuato della rete, no? Che poi spesso può diventare fanatico, naturalmente, perché il fanatismo si nutre anche di questo. Io direi che dentro Webete ce le mettiamo, ce le possiamo, Marazzini, ce le possiamo. Marazzini, ce le possiamo mettere tutte e due. Quello che ha una sua intenzione, una finalità di avvelenare i pozzi, come dice Mentana, è quello che invece ci casca, che vede una dichiarazione virgolettata, una frase che viene attribuita a qualcuno, che in realtà, come diceva lei, è la stessa frase inventata chissà da chi, copi-incollata per dimostrare che i vaccini fanno venire l'autismo o altre cose, che poi non comunque esistono. Non dimentichiamo mai che comunque il fatto che una parola entri stabilmente nel vocabolario italiano non dipende dall'Accademia della Crusca, abbiamo già detto anche per Petaloso, naturalmente dipende dall'uso degli utenti, quindi noi possiamo dire se è ben formata, questa è abbastanza, Petaloso era formata meglio perché una parola meglio formata, perché naturalmente qui c'è questa doppia che viene da web, no? È un po' così, lascia un po' l'inglese, insomma lascia un po' a desiderare, meglio. Però insomma ha le carte in regola anche Webete per sì, poter sì. andare noi, avanti e diventare un neologista. Personalmente la voce dell'Accademia, la voce del Presidente, posso dare la benedizione a questa parola, anche per il suo alto contenuto civile. Ecco, bravo, no? Ma affronterete la questione in una sessione, vabbè, questo ce lo può anticipare. In una sessione, senz'altro, penso anche che se il discorso continua la consulenza darà una risposta, spero coerente con questo avvio dato dal Presidente. In questo momento l'Accademia ha appena riaperto i battenti. Ci faccia sapere, Marazzino, mi raccomando. Va bene. Senz'altro. Grazie, senz'altro. Buona serata. Grazie. Buonasera, grazie, grazie. E questa era l'analisi di Webete. Webete, allora, dove andiamo? Andiamo con Renzo che ci chiama da Bologna. Buonasera. Pronto? Eccolo qua, Renzo. Pronto, Renzo, mi chiamo Renzo da Bologna. Sì, allora, perfetto. Dunque, solo che abbiamo un minuto, Renzo, quindi giochiamocela bene. Anche se stimo Mentana, ha fatto una formazione che non mi piace neanche un po', il Pirchi. Ma allora non facciamo solo il Bonfassio. Io dico i Pirchi, per esempio, nel mondo del calcio. Per quale motivo? Io non ho sentito nessuna squadra, a parte, se non mi ricordo, il Napoli, mi pare, non hanno devoluto un picco secco di incasso, per dire. Sì. Poi per quanto riguarda le Olimpiadi, anche qua, perché non lo finanzia il calcio, visto che sono dei super pagati, super miliardari, che vanno 3-4 volte. Devo chiudere, Renzo, mi dispiace, devo chiudere. Buona serata a lei, buona serata anche agli ascoltatori che sono in linea. Lì sentiremo naturalmente domani. Un ringraziamento a Riccardo Buccero, Riccardo Poli, Cristian Goldoni in redazione, Roberta Frisani in regia. Ci sentiamo domani. Buona serata ad Alessio Maurizi. Ciao.